Le borse europee vanno giù, Piazza Affari, la spread risale oltre quota 385. Renzo Bossi ufficializza le dimissioni da consigliere regionale. Maroni, primo atto di pulizia, ma non basta. Stasera a Bergamo la manifestazione dell'orgoglio leghista. Scintille fra Siria e Turchia nel giorno della visita di Kofi Annan. Damasco accusa Ankara di inviare armi e addestrare i ribelli contro il regime di Assad. Congedi parentali anche per i nonni, la proposta del ministro Riccardi per aiutare le donne a conciliare lavoro e famiglia. Buona giornata dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. Fra poco torneremo sulle vicende giudiziarie che stanno travolgendo la Lega. Quella di oggi è infatti una giornata da resa dei conti all'interno del partito. Prima però un aggiornamento su mercati e spread, perché le borse stanno andando giù e lo spread sta invece andando su. In diretta con noi Deborah Rosciani. Milano sul FTSE MIB in questo momento meno 2,86%. Parigi perde 1,5%. Francoforte 1 punto. Londra meno 0,80%. Ritorna la tensione sui mercati, che hanno archiviato e già annullato tutto il rialzo che avevano effettuato nei primi tre mesi dell'anno. A pesare questa mattina molti fattori, ma soprattutto sta ritornando la tensione sui titoli di Stato dei paesi della periferia dell'area euro, con appunto questa ripercussione sulle borse che restano in netto calo. Oggi, dopo la prolungata pausa pasquale, i mercati europei hanno incassato anche il contraccolpo dei dati deludenti pubblicati venerdì scorso sul mercato del lavoro statunitense, che a marzo ha generato meno posti del previsto, 120.000, alimentando quindi i timori di possibili indebolimenti dell'economia globale. Ma questa mattina appunto a destare preoccupazione soprattutto di nuovo il differenziale di rendimento fra i titoli spagnoli e italiani rispetto a quello tedesco. Rispetto al Bund tedesco, poco fa lo spread fra BTP e Bund ha superato i 390 punti base, peraltro al nuovo livello massimo degli ultimi mesi. Era stato toccato a metà a febbraio a 388, mentre il picco minimo era stato toccato il 19 marzo a 278 punti base, per cui ritorna l'attenzione. Gli investitori stanno guardando con preoccupazione a quello che accade. Peraltro stamattina c'è stata anche un'asta di titoli di Stato dalla Grecia, che è andata piuttosto bene con i rendimenti in ribasso, ma l'attenzione degli operatori appunto, come dicevamo, si è spostata altrove. Vedremo anche quello che accadrà a Wall Street nelle prossime ore. Ieri il mercato americano è stato aperto, ha chiuso in ribasso di un punto. Oggi negli Stati Uniti riprende tra l'altro la stagione delle trimestrali con il bilancio di Alcoa, e per il momento è tutto. Grazie a Deborah Rosciani, che tornerà ad aggiornarci nel corso del GR24 appunto sull'andamento di borsa e dello spread. Torniamo invece alle vicende della Lega. Questa mattina vertice in procura per fare il punto sull'inchiesta, e stasera l'attesa manifestazione a Bergamo dell'orgoglio leghista. Ci aggiorna in diretta Andrea Viali. Sì, buongiorno. Quella di oggi è davvero una giornata cruciale per la Lega Nord, giornata che, come ricordavi, si concluderà con la serata dell'orgoglio padano a Bergamo. Questo è il primo appuntamento ufficiale del partito dopo le dimissioni di Umberto Bossi da segretario federale, e per prepararlo al meglio in via Bellerio da questa mattina è riunito il triunvirato che ha preso il suo posto. I tre reggenti, Maroni, Calderoli e Dall'Ago, dovrebbero anche iniziare ad analizzare i conti del partito dopo la gestione Belsito. Su Facebook proprio Maroni oggi ha commentato intanto le dimissioni di Renzo Bossi da consigliere regionale, dimissioni formalizzate proprio stamattina. È il primo atto delle pulizie di primavera, ma non basta di certo, adesso avanti tutta, ha scritto l'ex ministro dell'interno. Nelle sue parole chiaro il riferimento alla posizione di Rosi Mauro, sulla quale prosegue il pressing del partito, e secondo voci la vicepresidente del Senato coinvolta nell'inchiesta sui conti del Carroccio potrebbe dimettersi già in giornata. In mattinata si è dimesso intanto però il segretario provinciale del partito a Varese, Maurilio Canton, contestato dai marioniani. Su di lui pesava la sfiducia annunciata nei giorni scorsi da buona parte dei componenti del direttivo provinciale leghista di Varese. Per ora è tutto. Grazie ad Andrea Viali. Occhi puntati dunque sulla serata di Bergamo. Giampaolo Dozzo, capogruppo leghista alla Camera, al microfono di Alessandro Milan. Questa sera a Bergamo ci sarà una serata appunto dell'orgoglio leghista, di far capire che non siamo proprio morti. Non siamo morti, siamo un movimento ancora vivo. Speriamo che i cittadini capiscano la nostra situazione e ci diano ancora la loro fiducia, e questa è la nostra speranza. Ma al di là di tutto questo, questa sera appunto c'è una serata dell'orgoglio leghista, di essere leghista. Io sono orgoglioso di essere leghista, non mi nascondo di quello. fatto e quello che presumibilmente farò. Renzo Bossi dunque, come abbiamo sentito, si è fatto da parte, non si può dire lo stesso per altri esponenti in Consiglio regionale lombardo. Non siamo qui per difendere le poltrone, aveva detto 2 mesi fa quando in ballo c'era l'alleanza col PDL in Lombardia. Oggi, con la procura che indaga e mezza Lega infuriata di fronte alle spese folli di Bossi Junior, il discorso è diverso e le dimissioni sono arrivate per davvero. Ma il Trota, non ancora formalmente indagato, almeno un sassolino dalla scarpa se lo toglie, ricordando la situazione che c'è in Consiglio regionale. In Consiglio regionale direi che negli ultimi mesi ci sono stati diverse vicende giudiziarie che hanno portato a essere indagate più di una persona. Io non lo sono, ma credo sia giusto e opportuno in questo momento per il mio movimento fare un passo indietro. Già, perché gli indagati, niente affatto dimessi, sì, sono 9. 6 del PDL, l'ultimo è stato Angelo Giammario, accusato di corruzione, ma ci sono gli ex assessori Nicoli Cristiani, Massimo Ponzoni per tangenti, Gianluca Rinaldin per corruzione e Nicole Minetti, indagata per favoreggiamento della prostituzione nel caso Ruby. Nel PD c'è la nota vicenda di Filippo Penati, ex braccio destro di Bersani, indagato per concussione e corruzione. Restando nella Lega, sono indagati Davide Boni, sempre per corruzione, Daniele Belotti per un'inchiesta sul tifo violento e Monica Rizzi per un presunto dossieraggio contro i nemici interni del partito, guarda caso quelli che non volevano l'elezione di Renzo Bossi. Alessio Maurizi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'inchiesta va avanti e sembra che anche la Tanzania avrebbe respinto soldi della Lega. Chiediamo conferma al collega del Sole 24 Ore, Angelo Mincuzzi. Buongiorno Angelo. Buongiorno, sì, è così. Quella di oggi sarà una lunga giornata di lavoro per i magistrati di Milano che stanno indagando sulla gestione opaca dei fondi della Lega Nord, perché i PM Alfredo Robledo, Alberto Pellicano e Paolo Filippini si riuniranno nel pomeriggio per fare il punto dell'inchiesta e per programmare i prossimi interrogatori dei testimoni, che verranno ascoltati in un luogo lontano dai giornalisti. Oggi è stato anche acquisito il video girato dall'autista e guardia del corpo di Renzo Bossi, Alessandro Marmello, che sarà interrogato nel pomeriggio dai PM. Nel video, che è stato diffuso ieri sul sito del settimanale Oggi, si vede Renzo Bossi prendere del denaro in contante dal suo autista. E si è anche appreso appunto che i 4,5 milioni di euro che l'ex tesoriere della Lega, Francesco Belfito, aveva trasferito in Tanzania, furono respinti proprio perché sospetti dalla banca del paese africano e congelati per circa un mese prima di ritornare nelle casse della Lega Nord. L'inquirente milanese è adesso a caccia dei presunti fondi neri che avrebbero alimentato le spese facili degli uomini vicini al fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi. E dal Palazzo di Giustizia di Milano per ora è tutto. Grazie, grazie al collega del Sole 24 Ore, Angelo Mincuzzi, per questo aggiornamento. E quanto sta accadendo alla Lega e non solo, per la verità, ha riacceso il dibattito sul finanziamento pubblico ai partiti. In diretta da Roma, Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. La maggioranza corre ai ripari e pensa a un provvedimento snello, 4-5 punti al massimo, per dare un segnale preciso e immediato contro l'ondata di antipolitica che potrebbe muoversi dallo scandalo che ha colpito prima la Margherita e poi la Lega. Alfano, Casini e Bersani hanno raggiunto una intesa e entro domani riuniranno i tecnici di PD, PDL e Terzo Polo per mettere nero su bianco una bozza di riforma alla legge sul finanziamento dei partiti che garantisca trasparenza e congruità dei bilanci. Bozza che giovedì verrà sottoposta alle altre forze politiche. Quanto all'iter, l'ipotesi che si fa strada è quella di una corsia preferenziale in commissione senza passare per l'aula, in modo da garantire tempi più rapidi. Tra le nuove regole si pensa a bilanci certificati da società iscritte alla Consob e poi sottoposti al controllo della Corte dei Conti, obbligo della pubblicazione su internet dei resoconti finanziari dei partiti, abbassamento a 5.000 euro della soglia delle donazioni anonime alle formazioni politiche, sanzioni pesanti per chi sgarra, mentre a dividere sono 2 punti, in particolare la riduzione dei rimborsi elettorali e l'applicazione dell'articolo 49 della Costituzione sulla natura dei partiti, mentre non viene messo in discussione il principio del finanziamento pubblico. E da Roma è tutto. Grazie ad Alessandra Schepisi. Questo dunque il dibattito in Italia, ma come funziona negli altri paesi europei? Sentiamo.

solo con il primo quarto, con il primo trimestre, quando i dati di bilancio sia del governo centrale che delle regioni, che sono il vero nodo da sciogliere, daranno risultati positivi. Ecco Luca, sono arrivate da Madrid anche critiche all'Italia. Sì, infatti... Pulpito però? Esatto, però è una critica, è una guerra fra poveri, nel senso che la Spagna si lamenta del fatto che vede di... in modo fa capire che Mario Draghi, l'italiano della BCE, in questo momento non li sta aiutando, fa capire che l'Italia ha guardato solo a se stessa senza fare squadra magari in Europa, senza cercare un appoggio. Certo è che la Spagna si trova in difficoltà molto più gravi ora di quando l'Italia stava male, è come se in Europa i mercati, gli investitori, gli speculatori cercassero sempre un malato da colpire, e quando qualcuno si tira un po' più su, come succede all'Italia in questo periodo per fortuna, e qualcun altro invece viene colpito con più durezza. Comunque 10 miliardi di manovra annunciati dal governo che andranno soprattutto a colpire la spesa per sanità e distruzione delle regioni, che vuol dire ticket per i redditi più alti, e vedremo quali altri annunci ci saranno nei prossimi giorni. Grazie a Luca Veronese, collega del Sole 24 Ore. Dicevamo delle critiche della Spagna all'Italia anche sulla riforma del mercato del lavoro, che creerebbero appunto ansia secondo Madrid in Europa. Riforma, quella del mercato del lavoro, che domani approda in Senato per iniziare l'iter parlamentare. Sempre domani ci sarà un nuovo incontro fra tutte le associazioni imprenditoriali. Un'apertura positiva che auspichiamo abbia un seguito in Parlamento. Così il direttore generale di Confindustria Giampaolo Galli commenta l'apertura a possibili modifiche alla riforma arrivata ieri dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Antonio Catricalà. Luigi Marino, presidente di Conf Cooperative dell'Alleanza delle Cooperative Italiane, al microfono di Anna Marino. Il punto più delicato per quanto riguarda il nostro sistema è la flessibilità in entrata, perché nonostante le affermazioni del governo dette e ripetute, abbiamo un appesantimento reale del costo del lavoro aggregato. Questo crea, in un momento particolarmente delicato come quello che stiamo vivendo, dovuto alla crisi e alla recessione economica, comporta evidentemente grossi impegni per le imprese. Quindi voi cosa proponete, insomma, di cambiare o comunque in alternativa? Proponiamo degli aggiustamenti, perché la riforma come prima è uscita dal tavolo con le parti sociali e poi modificata nell'articolo 18 dal Presidente del Consiglio dopo l'incontro con i vertici dei partiti della maggioranza, è una riforma che deve passare, dovrà passare, e quindi inutile accanirsi ulteriormente sull'articolo 18. Crediamo che bisogna cercare di trovare tutte le soluzioni possibili per rendere meno gravoso in questo momento sulle imprese e ovviamente anche sui lavoratori il costo della riforma. E poco fa ha parlato da Rovigo sulla riforma del mercato del lavoro anche il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Nessuno di noi, dice, ha chiesto di stravolgere tutto, però ci sono molti punti, in particolare sulla flessibilità in entrata, che se non dovessero venire cambiati non solo non creerebbero nuova occupazione, ma rischierebbero addirittura di ridurla. A parlare così la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. La possibilità di usufruire dei 6 mesi di congedo parentale fino ai 18 anni di età dei figli è una delle misure di sostegno alla genitorialità che il ministro Riccardi presenterà alla Camera. Il pacchetto prevede anche la possibilità per i nonni lavoratori dipendenti di usufruire in alternativa ai genitori proprio dei congedi parentali. I nonni dunque salvano la carriera delle mamme in Italia? Lo spiega Katia Caramelli, Chiara Pronzato, ricercatrice dell'Università Bocconi di Milano, autrice di varie ricerche sul tema. Avere o no i nonni a disposizione nella cura dei bambini, soprattutto dei bambini piccoli, dà dei risultati fortissimi, che però purtroppo è un nostro difetto, io direi. Comunque, solo per dare due numeri facili da ricordare, tra le mamme che non hanno i nonni lavora il 42%, tra le mamme che hanno i nonni lavora il 66%, una differenza di quasi 30 punti percentuali, che ci dà l'idea che solo i nonni riescono a far lavorare le donne in Italia, perché manca invece servizi pubblici, asili nidi adeguati per aiutare le donne a partecipare al mercato del lavoro, come fanno in altri paesi dove i nonni aiutano sempre, non è che solo nel sud dell'Europa aiutano i nonni aiutano in tutti i paesi d'Europa, ma in modo diverso, tipo vanno a prendere i bambini a scuola, non è un lavoro full time. Invece in Italia quasi i nonni salvano proprio il mercato del lavoro delle donne. Questa proposta del ministro Riccardi non fa che consolidare questa constatazione. Non piace a me, ma non personalmente, per le ricerche che ho fatto, perché di nuovo dà tanta importanza alla famiglia e quindi crea a un certo punto ineguaglianza, cioè tutto si risolve dentro la famiglia. E poi sembra un po' di tirare la coperta da una parte all'altra, perché da una parte c'è la riforma del pensionamento, quindi tutti, uomini e donne, devono fare più il mercato del lavoro, dall'altra parte si dà questa possibilità che chi prenderebbe di nuovo le nonne, che oltre le pause dal lavoro che hanno avuto prima, le avrebbero ora. La morte di Miriam Mafai è un immenso lutto per il giornalismo italiano, per il Sindacato Unitario dei Giornalisti, l'FNSI, di cui è stata la prima giornalista donna chiamata a esserne presidente dall'83 all'86. Così la Federazione Nazionale della Stampa ricorda la giornalista scomparsa ieri ad 86 anni. Nel pomeriggio dalle 15.30 in Campidoglio la Camera Ardente, domani i funerali. Nello scorso mese di febbraio sono state aperte 55.434 nuove partite IVA, senza nessuna variazione rispetto al febbraio 2011. Il 43,4% delle nuove partite IVA si è registrato al nord, il 22% al centro, il 34,5% a sud e le isole. Calano le partite IVA al centro e al nord, soprattutto nel nord-est, mentre sud e isole sono in aumento. Ed ora il nostro appuntamento quotidiano sull'evasione fiscale. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Ricavi non dichiarati per 113 milioni di euro, IVA evasa per 36 milioni e 31 evasori totali. Questi i risultati di un'indagine della Guardia di Finanza sui negozi compro oro in tutta Italia. Complice la crisi, questi punti vendita si stanno moltiplicando. Più 25% dei ricavi nell'ultimo anno, oltre 5.000 negozi in Italia. Ma come ha detto il ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri alla Commissione Antimafia, si registra anche un'oggettiva difficoltà per la tracciabilità dei passaggi di mano che bisognerebbe attualizzare, anche a beneficio di una maggiore trasparenza fiscale. In parole povere, questi esercizi commerciali spesso nascondono attività illecite che vanno dall'evasione al riciclaggio e sono spesso nelle mani della criminalità organizzata. Il trucco usato più frequentemente è quello di evitare il pagamento IVA sui gioielli, dichiarandoli come rottami da vendere alle fonderie. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Nuova perizia psichiatrica su Anders Behring Breivik, l'estremista di destra norvegese che lo scorso luglio aveva massacrato, lo ricorderete, 77 persone. Ebbene, questa nuova perizia riconosce Breivik come penalmente responsabile del massacro, contrariamente a quanto disposto da una perizia precedente, secondo cui Breivik non era da considerare responsabile dei suoi atti. Il processo inizierà la prossima settimana, la sentenza è attesa a luglio. La Siria annuncia il ritiro da alcune province ribelli. Intanto l'inviato dell'ONU Annan visita il campo profughi siriano in Turchia in cui erano rimaste ferite diverse persone per degli spari provenienti dalla Siria. Il ministro degli esteri siriano ha annunciato da Mosca che il ritiro dell'esercito, come pattuito con l'ONU, è cominciato. Muallem ha però subito aggiunto che il cessate il fuoco arriverà solo con l'arrivo di ispettori internazionali, un gruppo che Damasco vuole però poter valutare prima che entrino nel paese. Comunque riprende quota il piano di pace dell'inviato dell'ONU Kofi Annan, che per oggi prevedeva la fine delle operazioni dell'esercito siriano e per le prossime 48 ore il cessate il fuoco da entrambe le parti. La giornata non era iniziata sotto buoni auspici, con bombardamenti e altre vittime nella zona di Aleppo. Ma intanto sono scintille tra Turchia e Siria, dopo che ieri 4 persone sono rimaste ferite in un campo profughi siriano in Turchia per spari provenienti dalla Siria. Il premier turco Erdogan ha parlato di chiara violazione dei confini. Dalla Russia il ministro Muallem accusa la Turchia di addestrare e armare i ribelli al regime di Assad. Quel campo oggi sarà visitato dall'inviato dell'ONU Annan. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Quella tastiera squadrata e quello schermo viola hanno segnato l'infanzia di tantissimi italiani fra i 35 e i 45 anni, oltre ad aver alfabetizzato all'informatica milioni di persone in tutto il resto del mondo. Il Commodore 64, il leggendario computer che molti di voi ricorderanno, ebbene, è morto il suo inventore, è morto Jack Tramiel, Mr. Commodore 64, così veniva chiamato, un ebreo polacco sopravvissuto ad Auschwitz e inventò il celebre computer. Ed era l'ultima notizia di questo GR24, curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Roberto Scaltritti. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.